certamente l'abito gli si adatti. Ecco, più dietro, così, che ne sto bella. E perché c'è il velo mio? Eccome sto sangue. Quel sangue, io non so come, poco prima strusciolando in un sasso, la pelle io mi sgraffiai, la piaga col nastro io mi fasciai. Mostrate, Anna ne mal, cospetto, ha il braccio più candido nel mio qualche ragazzo. E se mi fa la pazza, ma nel mio gabinetto prendo un poco di chiesa d'affetto che sullo scrigno. In quanto a nastro, è ver, per il colore, mi spiace di privarmene. Dite, e dalle gale il braccio. Un altro nastro prendi insieme col mio vestito. Oh, più presto, ma mio quello marito. Perché? Questo migliore. Allora che nastro? Lego la chioma, dove tocco la pelle, non getto. Forestiero, è buon per le ferite, non è vero. Guardate, cavalità, che io non sapia. Madama, scherzo, ed io, fra tanto morbo. Poverin, che sventura. Oh, mi infelice. Forse vicino all'ultimo momento che sto poco userio. Siate saggio così questa follia. Chi picchia la mia porta? Perché chiusa? Il mio sposo, oddio!